Dateci Voce è un movimento spontaneo che è nato esattamente il 12 aprile, quando all'annuncio da parte del Premier Conte della composizione della Task Force Ricostruzione, quindi dedicata a ripensare in qualche modo la nuova normalità dopo il lockdown, a questa notizia abbiamo visto che sostanzialmente vi erano su 17 componenti soltanto 4 donne. Se poi aggiungiamo due componenti che provenivano da altri comitati, erano 19 componenti e 4 donne. Questo movimento è nato spontaneamente all'interno di una chat che da circa un anno discuteva di temi di uguaglianza di genere e di pari opportunità, e da lì è nata una lettera proprio al Presidente del Consiglio, che è stata una petizione che ha raggiunto migliaia di firme e ha raccolto l'adesione di centinaia di associazioni, una petizione che poi è stato anche un flash mob il 2 maggio e quindi che in qualche modo ha poi raggiunto il suo obiettivo il 4 maggio, quando proprio il Premier Conte dichiarò pubblicamente che avrebbe inserito un diverso numero di donne sia nella task force ricostruzione sia nel comitato tecnico scientifico presieduto da Domenico Arcuri. Questo è stato, diciamo, l'obiettivo anche parzialmente raggiunto, perché poi sappiamo che la task force ricostruzione in realtà è andata un pochino a concludere il suo mandato, però in realtà le donne che sono state coinvolte stanno tuttora collaborando attivamente con il governo. E Dateci Voce è stato questo, un movimento della società civile che ha mobilitato migliaia di persone, poi ha fatto milioni di impression durante il flash mob virtuale del 2 maggio, per sancire un principio, che se dobbiamo risolvere i problemi della società non possiamo ignorare l'opinione di chi compone il 50% di quella società. Ovviamente il problema della parità di genere precede e anche segue purtroppo ovviamente la pandemia, però durante questa epoca strana qual è stato il ruolo delle donne? In questa epoca strana i ruoli delle donne parlerei, nel senso che le donne che già si moltiplicano per lavorare, seguire figli o occuparsi della casa, o comunque in qualche modo supervisionare chi si occupa per loro della casa nel caso si possano permettere di essere aiutate, questi ruoli, diciamo, che erano già molteplici, si sono decuplicati durante la pandemia, perché naturalmente abbiamo tutte dovuto fare a meno intanto del supporto dei nonni, perché erano le persone più fragili, e abbiamo dovuto fare a meno del supporto di babysitter, tate, e non vi dico chi svolgeva un lavoro in ospedale, che proprio aveva anche lo stigma, no, di lavorare vicino a persone affette da Covid-19. Quindi le donne sono rimaste da sole a compensare un welfare che ha mostrato tutte le sue fragilità, ed è per questo motivo che Dateci Voce ha poi di fatto involontariamente ispirato la campagna europea Half of It, promossa dall'eurodeputata Alessandra Ghese per l'utilizzo del Next Generation EU, quindi quello che noi chiamiamo Recovery Fund, destinare le risorse, almeno il 50% delle risorse alle donne, ma alle donne significa a infrastrutture sociali che possano sostenere l'attività di cura e non delegare questo lavoro, peraltro non retribuito, alle donne, perché parliamo di bambini, ma anche la gestione poi degli anziani e dei malati. Io ne avevo uno in casa, ad esempio, cioè tutta questa attività di cura è andata a pesare sulle donne che avevano già il loro lavoro. In Italia la campagna Alfo Vita è stata in qualche modo rilanciata da un altro movimento spontaneo che ha anche Dateci Voce tra i suoi fondatori, che si chiama Il Giusto Mezzo, che proprio ieri è stato al Pantheon in piazza a manifestare, che ha raccolto già 40.000 firme per fare in modo che queste risorse europee che ci stanno arrivando, e che sono molto importanti perché sono un quarto del totale di quelle che vengono allocate ai paesi in Europa, siano destinate proprio a risolvere questo problema che lei ha citato, cioè che ci sarà anche dopo. Ecco, facciamo in modo che non ci sia dopo. Quindi Il Giusto Mezzo sta portando avanti, si è dato la staffetta con Dateci Voce, sta portando avanti, quindi dopo Dateci Voce dateci soldi, verrebbe da dire. E devo dire che proprio oggi e di oggi la notizia è che il Premier Conte si è impegnato a destinare una cospicua parte del Recovery Fund proprio all'occupazione femminile. A proposito di occupazione femminile, del resto appunto ci sono già studi e ricerche che dimostrano come il rischio fosse proprio dopo il lockdown e quindi la crisi sociale che è seguita a quella sanitaria, che a pagare il prezzo più alto con l'espulsione anche dal mercato del lavoro fossero proprio le donne. E bisogna capire che non è una richiesta delle donne per le donne, ma è una richiesta delle donne per tutti, perché sono ormai, io non sono un economista, ma se sono una manager d'azienda, ma in questo mio impegno impegno come attivista, collaboro con professioniste, tra cui anche delle economiste, ho imparato da loro, che ormai siamo seppelliti da letteratura, che ci dice che il moltiplicatore più importante da un punto di vista economico per aumentare il PIL è investire nelle attività di cura. Cioè, se si investe nelle attività di cura rispetto ad esempio alle infrastrutture, si genera si moltiplica il risultato anche da un punto di vista proprio economico e di PIL. Quindi oggi è arrivato il momento di porre la questione delle donne non come la tutela di una minoranza. Le donne sono il 50% della popolazione, se restano fuori dal lavoro ne soffre l'economia, mentre inserire le donne nel mondo del lavoro aumenta il PIL e ne beneficia tutta l'economia.